Il Gastronauta di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona giornata. Bene, oggi faremo un bellissimo viaggio. Partiremo da Capaccio e arriveremo a Marina di Camerota e incontreremo ben 10 comuni che dispongono della bandiera blu, quindi vuol dire di un mare splendido, quindi il paesaggio è veramente incantevole, ma in questo viaggio troveremo anche dei siti archeologici molto importanti e troveremo soprattutto cibo, vino e tanta ospitalità. Quindi via in partenza è il Cilento, ma è anche un modo musicale di esprimerlo. Eccoci allora in pieno clima cilentano. Bene, cominciamo questo viaggio cominciamo dalle ricette e cominciamo dal buon mangiare e andiamo a Policastro Bussentino, una frazione di Santa Marina. Andiamo al ristorante Il Ghiottone. Buongiorno a Maria Rina. Buongiorno, come stai? Bene, molto bene. Senti, volevo chiederti quali sono i piatti tradizionali che tu offri appunto ai tuoi clienti che raccolgono un po' il meglio della produzione del Cilento, perché diciamo che la produzione gastronomica è veramente straordinaria in questa terra. Certo, è ricca di profumi, sapori. E pensa un po' che il Cilento viene chiamato terra d'incanto. Allora, in effetti i piatti della tradizione sono la lagana e ceci fatti con la mollichella fritta, sarebbe una pasta fatta con la farina integrale e i ceci che vengono messi a mollo, poi aglio, olio extravergine e poi dopo invece del formaggio si mette la mollica fritta, la mollica di pane. La zuppa di fagioli con la scarola, le nocche cilentane che sarebbe una pasta ripiena con la ricottina di capra. E poi tanti altri piatti, ma quelle che cito di più sono i piatti di verdura che da noi abbondano, anzi ortaggi, cioè un piatto che viene fatto, chiamato la ciauredda, che è fatta, è un insieme di questi ortaggi, patate, zucchine, melanzani, peperoni, pomodoro e tanto basilico. Bene, insomma, un mangiare veramente molto sano. Ma rimani con noi perché ora chiedo a Giuseppe Pagano, che è un importante albergatore al Savoy Beach di Pesto, ma è anche un grande produttore di vino. Buongiorno Pagano. Ciao, buongiorno a te, piacere sentirti, piacere di essere collegato. Allora, su questi piatti, Giuseppe, cosa possiamo mettere della tua produzione dell'azienda San Salvatore? Bene, noi produciamo sia bianchi che rossi da uve autoctone, da uva aglianico, da uva fiano e greco. Tutti questi cloni che portarono i greci 3000 anni fa quando fondarono Pestum. Quindi, a secondo il gusto, oramai non c'è un abbinamento assolutamente certo per un piatto, si va un po' più verso la libertà del gusto del consumatore. Beh, sono d'accordo, perché io dico che bisogna sempre bere democraticamente, ognuno scelga il vino, anche un rosso sul pesce o un bianco sulla carne, sono d'accordo con te. Ecco, tu hai parlato di questi tuoi particolari vini. Diciamo il Cilento è anche terra di vitigni autoctoni. Cilento è terra di vitigni autoctoni, questi tre vitigni che ti accennavo prima, appunto l'aglianico, il greco e il fiano sono vitigni autoctoni proprio del Cilento, perché oramai sono 3000 anni che esistono e si coltivano nel Cilento, appunto hanno cominciato i greci quando hanno fondato Pestum, che è proprio là nel Cilento, nel cuore del Cilento, insieme con Elea, l'attuale Ascea, che era la patria della filosofia greca nella Magna Grecia, insomma. Ecco, l'albergo il Savoy Beach è a Pesto, una zona che è attorno a tanto da vedere, quindi diciamo il turista che arriva sicuramente ha modo sia di fare cultura che anche di cercare grande gastronomia. Assolutamente sì, Pestum in questa ottica è straordinariamente ricca, intanto per la cultura, per i grandi scavi archeologici che ci sono, per la cultura dell'enogastronomia, a cominciare dalla mozzarella di bufala, dei grandi oli del Cilento, di questi grandi vini che si stanno proponendo veramente con modo e forza sui mercati internazionali. con le visite di escursionistiche in tutta la Campania, quindi Vestum è veramente un punto ideale anche per andare a fare escursioni nel Cilento, nel sud della provincia di Salerno, ma anche verso la costiera amalfitana, Capri, Pompei. Quindi è un posto dove venire, ma io voglio tornare a Maria Rina, voglio chiedere, Maria, parla anche di qualche dolce, qualche dessert particolare. Allora, se parliamo di dolci della tradizione, guarda, io ti parlo di una torta che viene chiamata, cioè col nostro dialetto, la pizzaruccia, che in effetti è un pan di Spagna che viene imbevuto di acqua e zucchero, bucce di limone e vermouth, e poi riempito, farcito con la crema che noi diciamo qui al nostro linguaggio, la crema gialla, che in effetti è una crema pasticcera, che poi viene fatta ricoperta di naspro, cioè tipo le nasprate, cioè acqua, zucchero e gocce di limone, però è veramente da assaggiare. In più abbiamo le nostre scavuratelle, che non sono sempre fatte con acqua e farina, cioè sono dolci poveri di ingredienti, ma di gusto e di sinceramente da provare. Acqua e farina, un po' di anice e bucce di mandarino. Noi usiamo molto gli agrumi, e poi ce ne sono tanti e tanti altri, però questi sono quelli veri della tradizione. Bene. E volevo anche ricordare che, visto che il Savoy Beach abbiamo parlato di Pestum, a Pestum c'è un ristorante, uno ristorante che io apprezzo molto, che è Nonna Sceppa. Purtroppo Raffaele non poteva intervenire perché è veramente un grande personaggio. Un ristorante che io chiamo extra large, però ce ne fossero di ristoranti extra large anche come quello di Nonna Sceppa. Ma voglio tornare a Pagano perché sicuramente il suo albergo è diventato un po' il centro vicino. Se uno va in questa zona vede veramente delle strutture alberghiere di primissima qualità, vero Pagano? Ma è una tradizione che ormai dura da oltre 20 anni. Già 20 anni fa tutte le strutture alberghiere di Pestum erano portate nella direzione della qualità e dell'eccellenza. Il vantaggio è che noi albergatori e ristoratori di Pestum ci siamo sempre andati a confrontare con chi è più bravo di noi, e quindi acquisiamo conoscenze e tecniche per migliorarci ogni anno, e l'inverno per noi serve proprio per questo, proprio per confrontarci e misurarci sempre di più sui livelli della qualità. Ritornando un po' alla ristorazione a Pestum, devo dire che hai perfettamente ragione, questo ristorante extra large di grandissimo livello qualitativo oltre che di grandi numeri. Raffaele, certo, è sicuramente un grande personaggio, mi trovo assolutamente d'accordo. Bene, io ringrazio Peppino Pagano, Savoy Beach, nonché San Salvatore, produttore di vini, Maria Rina, che è il ristorante Il Ghiottone di Policastro Bussentino, che come avete sentito fa veramente cucina di tradizione. Quindi due luoghi sicuramente da visitare appunto in questo viaggio, partendo da Capaggio, arrivando a Marina di Camerota, un itinerario che ha molte sorprese, oltre al mare all'interno, abbiamo detto siti archeologici e soprattutto alla gastronomia. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in viaggio, abbiamo lasciato Pestum e abbiamo sentito parlare appunto di cibo da Maria Rina di Policastro Bussentino. Continuiamo questo viaggio che, come detto, sarà pieno di sorprese, ma continuiamolo magari ascoltando sempre musica locale. Dopo aver parlato di vino, aver parlato di piatti, ora ho detto che appunto è una terra dove dal punto di vista culturale ci sono molte cose da vedere. Allora abbiamo con noi Barbara Guerra, dottorato di ricerca in geografia economica, nonché organizzatrice di un congresso molto interessante che sono le strade della mozzarella, perché poi parleremo anche percipuamente di mozzarella, perché è un po', come posso dire, il fiore all'occhiello di tutta questa area, anzi è l'area vocata alla mozzarella di bufala appunto campana DOP. Allora, buongiorno Barbara. Buongiorno a voi. Barbara, allora c'è tanto da vedere in questo territorio. Io volevo parlare un po' con te, ad esempio, che ci parlassi della costa del mare. Abbiamo già parlato, perché abbiamo detto ben 10 bandiere blu, una cosa incredibile. Ma ad esempio la Certosa di Padula, ecco, cos'è la Certosa? Uno che va a vedere la Certosa di Padula, cosa si trova di fronte? È una Certosa, Lorenzo, è un'opera maestosa, tra l'altro, come probabilmente avete già detto, il Parco Nazionale del Cilento è patrimonio UNESCO insieme proprio al sito archeologico di Pestum e alla Certosa di San Lorenzo. 450 anni di vicende di edificazione di questa imponente Certosa, la più grande d'Italia, con un chiostro che è 12.000 metri quadrati, il più grande del mondo. Certosa benedettina, oltre 500 stanze, una schiala a chiocciola in marmo maestosa, è un'opera unica, veramente incredibile, lascia senza fiato la sua visione. Ecco, la troviamo ovviamente nel Parco Nazionale del Cilento. Ecco, se uno arriva a Pestum, cioè scende in albergo, trova ottimo mangiare, ottima ospitalità, e è uno colto, cosa deve vedere dell'area archeologica? Sicuramente il primo impatto è con i tre magnifici templi dorici grandiosi, sono l'area della Magna Grecia meglio conservata, sono di origine ovviamente greca e hanno su di sé oltre 2500 anni di storia, ma per approfondire ancora meglio la visione all'interno del museo, tre piani ricchissimi di reperti archeologici e soprattutto la grandiosa tomba del tuffatore, che è l'unico esempio di pittura classica greca esistente al mondo, quindi sicuramente da non perdere. Ecco, rimani con noi perché ora ci rituffiamo per un momento nel cibo. Ho detto, facciamo questo come ping pong tra cultura, cibo, turismo. E allora in questa area c'è un fagiolo importante, devo dire che chi non l'ha mai assaggiato lo può provare con una buona consistenza. E allora andiamo in un luogo che si chiama Controne, il comune di Controne. Buongiorno Ettore Poti, che oltre ad avere un'azienda agricola e produrre il fagiolo di Controne è anche vice sindaco. Ettore Poti, buongiorno. Buongiorno. Cosa c'ha di particolare questo fagiolo? Mi racconti un po' di storia di questo fagiolo di Controne. Allora, la storia, il fagiolo di Controne sembra che sia stato introdotto a Controne nel lontano 1530, all'interno all'incirca nel 1530, quando fu donato, una certa quantità fu donata dal Clemente VII, il Papa Clemente VII, ai frati benedettini dell'abbazia. Quindi è da secoli che si produce sul nostro territorio questo fagiolo, famoso per la sua bontà, il gusto particolare, riconosciuto da un po' tutti gli chef, sia nazionali che internazionali, stellati e non. Nelle fiere internazionali, ad esempio, mi riferivano alcune persone che dopo la mozzarella di bufala, il fagiolo di Controne è uno dei prodotti, se non il prodotto più richiesto dagli chef. Bene, siamo molto contenti di questo. Beh, ce ne sono anche altri, ovviamente lei tira acqua al proprio mulino. Volevo chiedere, ha parlato di abbazia, ma esiste ancora questa abbazia, è visitabile? No, c'è la chiesa di San Nicola che era attigua all'abbazia di Controne. Senta Poti, e come lo cucinate voi localmente questo fagiolo particolare? Allora, il metodo tradizionale di cucinare questo fagiolo è sicuramente col tozzetto. Il tozzetto è una piccola presella che noi aggiungiamo ai fagioli lessati e poi conditi con un semplice olio extravergine di Controne. Olio extravergine è anche lui molto buono. Sì, beh, certo, l'olio d'oliva extravergine cilentano è un altro appunto dei tanti prodotti. Senta, mi tolgo una curiosità, quanto costano al chilo i fagioli di Controne? I fagioli dipende dalla confezione, andiamo dal produttore, andiamo dai 12 euro a circa 15 euro. 12. Voi avete un'associazione di produttori? Sì, l'associazione produttori di fagioli di Controne. E quanti sono più o meno? Siamo circa una quindicina. Quindi, beh, insomma, la produzione comincia a essere una produzione abbastanza importante, oppure piccole circa, produzioni? Su tutto il territorio comunale penso siamo sui circa 300 quintali. Ho capito. Bene, rimanga con noi perché io torno da Barbara Guerra e voglio chiedergli appunto di questo parco del Cilento. E Barbara, visitando questo parco, dammi un po' di indicazione, ecco, cosa può trovare un turista nel parco del Cilento? partiamo dal presupposto che il parco è molto grande, che prende il suo avvio proprio da Pestum e da Agropoli per arrivare fino a giù a confine con la Basilicata, quindi parliamo di oltre 100 chilometri di costa solamente se siamo sul fronte marino. E il parco ha la sua particolarità, che è un paesaggio vivente in cui ancora oggi è possibile addentrarsi soprattutto nei piccoli paesi interni e vedere una realtà che ci può lasciare veramente senza fiato, a partire dalle amenità paesaggistiche, dai fenomeni carsici, dalle tante grotte, dalle gole, ha una sontuosità anche di vegetazione. Si è parlato ora di olio d'oliva, ma è proprio l'olivo insieme al fico, il paesaggio che è la vegetazione caratterizzante del Parco Nazionale del Cilento. E poi piccole comunità, i piccoli centri, e una perla che è veramente un museo a cielo aperto è Ruscigno Vecchia, ad esempio, una cittadina che è spopolata, che è rimasta praticamente ferma ai primi anni del Novecento. A causa di una minaccia di frana, la popolazione fu spostata in un'altra posizione del territorio e il paese, il vecchio paese di origine medievale e poi con molte esempi di architettura settecentesca, è rimasto fermo ai primi anni del Novecento. È proprio una Pompei moderna, si può dire. Ecco, facendo questo viaggio, appunto, dicevo, da Capaccio fino a Marina di Camerota, c'è qualche paesino particolare caratterizzante, appunto, da poter visitare, magari che non è un sito archeologico, ma ci sono ancora dei paesi così rimasti ancora tale quale, che sono molto molto interessanti? Sì, ma ce ne sono innumerevoli. In realtà indicarne uno è veramente difficile, perché si può addentrare in un qualsiasi paese del Parco Nazionale del Cilento e vedere, osservare questi borghi antichi veramente intatti e di grande fascino e suggestione. Poi se ci spostiamo addirittura nel Vallo di Diano, ad esempio, sarà magnifica la visita al paese di Movigerati con le sue grotte, il fenomeno di risorgenza del fiume. Comunque l'Agropoli rimane il punto la base. L'area archeologica di Pestum è sicuramente l'inizio della passeggiata, la tappa per iniziare questa bellissima immersione. E se mi permette anche di dire, il Cilento delle volte, proprio con le sue passeggiate sui centri storici, può dare proprio l'impressione di un piccolo ritorno indietro nel tempo. È una sensazione di grande pace e soprattutto una popolazione molto ospitale, una bellissima enogastronomia. È un luogo veramente bello per vivere in pieno relax, a contatto con la natura. L'ente turismo ti pagherà dopo questa presentazione. Ma io... Beh, è casa mia, quindi certo, è sempre un piacere, certo, parlare del, certo, mio territorio. Ma io voglio tornare a Ettore Poti. Volevo sapere se a Controne ci sono delle trattorie, dei ristoranti che ovviamente portano al meglio la cucina basata sul fagiolo. Sì, c'è un ristorante qui a Controne che logicamente basa la sua cucina sul fagiolo. E poi anche nei dintorni ci sono vari ristoranti che logicamente per la vicinanza propongono piatti a base del fagiolo di Controne. Quindi non solo il piatto che lei prima ci ha detto che è caratterizzante, ma ovviamente i ristoranti locali fanno più piatti a base, appunto, del fagiolo, ovviamente per esaltarlo e per farlo conoscere, immagino. Sì, sono diversi piatti che propongono. Tradizionali sono, come dicevo, quello con la pesella, con la scarola, scarola e fagioli, molto molto buono, la pasta e fagioli logicamente che è tradizionale, e poi con la lagana, che è una pasta fresca fatta in casa. Senta, ma oltre, diciamo, a tanti eventi, c'è anche una sagra proprio basata sul fagiolo di Controne? Sì, quest'anno siamo alla 32esima, sarà la 32esima sagra del fagiolo di Controne e si tiene l'ultimo weekend di novembre. Quest'anno dovrebbe essere il 29 e il 30 novembre. Beh, finalmente una sagra basata su un vero prodotto del territorio, perché io non mi stancherò mai di dire che in questo paese, sulle 12.000 sagre così di cui si parla, quelle basate sul prodotto del territorio sono veramente molto molto poche. Volevo chiedere a Barbara, che è molto molto, diciamo, sul pezzo, come si dice, della gastronomia e dei prodotti della gastronomia, oltre le strade della mozzarella c'è qualche altra iniziativa importante dal punto di vista gastronomico? È un'iniziativa che mi piace molto, orientata al grande pubblico e a far conoscere un po' di tipicità, è la festa della pizza che ogni mese d'agosto svolgono nel comune di Giungano, che poi è vicino Pestum, ed è una pizza molto particolare perché si parla di pizza cilentana, quindi una pizza che nella sua base è un impasto del pane, è l'antica pizza che si è sempre fatta nel Cilento, e vi è un modo per riporla all'attenzione, per far conoscere questo centro di Giungano, che è un paese molto delizioso dal punto di vista architettonico, con una bella vista sul mare nonostante che sia in collina, e con una bellissima accoglienza, e gira intorno a questa festa veramente, veramente tanti prodotti di qualità e di territorio. Beh, pizza e mozzarella, insomma, siamo molto vicini, quindi al massimo della produzione, una combinazione davvero molto molto molto, diciamo, perfetta. Bene, io ringrazio Barbara Guerra e Ettore Poti, linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Continuiamo in questo bellissimo viaggio, appunto, attraverso questa terra magnifica che è il Cilento. Mare, bandiera blu quasi ovunque, cibo, avete sentito, cari gastronauti, si mangia veramente di tutto e molto bene. Poi anche c'è la parte culturale, avete sentito quanti siti si possono vedere, quindi diciamo si può combinare veramente la cultura, ma poi in fondo il cibo è cultura, quindi diciamo è un viaggio di cultura materiale, ecco, credo che sia veramente una terra giusta per la cultura materiale. Ma abbiamo parlato più volte di mozzarella di bufala e campana DOP. Ebbene, ora entriamo in un caseificio, tra l'altro un bellissimo caseificio, quello di Raffaele Barlotti. Buongiorno Barlotti. Buongiorno a tutti quanti voi. Allora Barlotti, difendiamo un po' questa mozzarella di bufala campana che ultimamente, diciamo, attraverso guai di altro genere ha avuto un po' così di calo di produzione, perché tutti pensano che i terreni siano infuocati o d'altro. C'è invece un territorio che è ancora integro, vero Barlotti? Sicuramente sono voci che ultimamente sono molto seguite da tutti, ma ovviamente il nostro lavoro è quello di smentire queste voci. Il nostro territorio è un territorio davvero baciato dagli dèi. Noi siamo a Pestum, nella zona archeologica, a pochi passi dai templi dorici, e anzi una proprio delle nostre missioni è stata quella di dare un valore aggiunto a quello che la gente pensa soltanto come dei semplici opifici. Noi facciamo anche ricezione e abbiamo puntato molto nel far entrare i turisti all'interno dei caseifici per fargli vedere sia tutta la produzione sia il nostro modo di accoglierli, non soltanto con la mozzarella ma anche con altri prodotti. Ecco, questo è molto importante secondo me, di far vedere, appunto, di andare all'origine della filiera, e devo dire che lei parte dall'allevamento delle bufale, quindi arriva al prodotto finale. Ecco, ci racconti, perché tutti della mozzarella di bufala campana conoscono semplicemente quella che arriva, non so, a Milano, come a Roma, come a Firenze, che a Torino, che è, diciamo, quel formaggio a pasta filata davvero straordinario, ma dietro c'è tutta una produzione, c'è anche il burro. E certo, ci sono tantissimi prodotti di derivazione dal latte di bufala. La cosa importante che mi sento di dire a tutti quanti coloro che ci ascoltano è sempre, quando vanno ad acquistare il prodotto, di controllare che ci sia il marchio DOP, perché sicuramente è una garanzia per il consumatore, e quindi loro sicuramente saranno felici di essere tutelati da un marchio così importante. Detto questo, la nostra azienda in particolare è un'azienda che è nata proprio come allevatori, già nei primi anni del secolo, e quindi abbiamo una sensibilità altissima verso l'animale bufala. E perciò cerchiamo di produrre e di ottenere dal loro latte diversi prodotti, tra cui il burro, ma io vorrei citare anche la ricotta, che sono sicuramente dei formaggi meno meno conosciuti della bufala, ma che ultimamente sono apprezzati tantissimo, in particolare nelle grandi cucine, ma ben presto arriveranno sicuramente sulla tavola degli italiani, allo stesso modo in cui si è riuscita a imporre la mozzarella. Ecco, rimanga con noi, perché ora abbiamo sentito parlare anche di fichi. Questa è una zona molto importante per una particolarità, appunto, dei fichi, soprattutto i fichi imbottiti. Allora andiamo da Antonio Longo all'azienda Santomile. Buongiorno Longo. Buongiorno a lei, signor Paolino, è piacere sentirla. Io so che lei ha una storia bellissima, perché lei è un geologo. Sì, è vero, sono un geologo. Mi racconti, perché è troppo, di come è passato dalla geologia ai fichi, mi racconti. Io sono un po' filosofo, dico che la lavorazione dei fichi fa parte del patrimonio genetico di noi cilentani. Con questo voglio dire che da generazioni e generazioni non c'è famiglia che in questo territorio lavori i fichi, chi in grande quantità, chi in piccolissime quantità. Mio nonno negli anni 30 era uno dei principali produttori, io faccio però parte di un'altra generazione, quella che va all'università, si laurea, non trova lavoro e decide di riprendere l'attività del nonno contro la volontà dei genitori. A distanza di anni, devo dire, oggi anche la mia famiglia sta dalla mia parte, però all'inizio è stato difficile. Senta una cosa, si parla sempre di fico bianco del Cilento. Sì. Ecco, di che cosa si tratta? Raccontiamo ai nostri radioascoltatori. Bene, il fico bianco del Cilento è un termine volgare, ma fa riferimento questa frase al colore verde chiaro della buccia. In realtà la varietà scientifica è il cultivar dottato, che è presente in grande quantità nel Cilento, in Calabria e in piccole altre regioni d'Italia. Quindi bene, rimanga con noi, perché ora andiamo anche in una fattoria didattica, un agriturismo, e devo dire che le fattorie didattiche, l'anno scorso in agosto abbiamo fatto una trasmissione che ha avuto grande successo, perché molta gente non sa assolutamente cosa sono le fattorie didattiche. Andiamo alla fattoria didattica di Ebanito, andiamo da Raffaella Marmo. Buongiorno signora Marmo. Buongiorno a voi. Ecco, le chiedo subito, fattoria didattica, voi cosa insegnate quindi a chi viene da voi? C'è una produzione particolare o cosa fate vedere al turista che arriva? Allora, la nostra fattoria nasce come appunto da generazioni con l'allevamento ovino, ovicaprino e bovino, quindi oltre poi alle colture in stagione. Quando arrivano le scuole noi non cerchiamo altro che far rivivere appunto quello che si faceva una volta e di tramandare le usanze e soprattutto i sapori. Quello che facciamo, ecco, il contatto con l'animale, perché è fondamentale con i bambini, soprattutto insomma quelli di oggi, i bambini delle nostre città che vivono con grande lontananza queste nostre realtà, quindi il contatto con gli animali, facciamo vedere come si fa la mungitura e li facciamo mungere direttamente, quindi vedere il latte fresco, insomma, che bevono appena arrivati in azienda per colazione, da dove arriva questo latte, quindi gli facciamo fare la mungitura, dopodiché facciamo anche vedere che fine fa questo latte, il latte oltre che a berlo viene appunto trasformato. Ecco, quindi... io le chiedo a questo punto di raccontarci, di dirci cos'è il cacio ricotta, perché è un'altra specialità appunto, oltre alla mozzarella di bufala, del vostro territorio. Sì, assolutamente sì. Purtroppo stiamo perdendo la signora, vediamo di recuperarla. Io intanto torno da Raffaele Barlotti. Barlotti, lei è molto impegnato, io ho visto di persona, anche a ricevere turisti, pullman e soprattutto stranieri, a spiegare loro appunto la mozzarella, i vari tempi di produzione. Ecco, il consumatore è sempre più attratto dal vedere appunto dove nasce un prodotto e come viene poi lavorato. Sicuramente sono sempre più le persone che ci chiedono di vedere l'origine del prodotto, anche venendo qui con delle nozioni, perché si vede che quando fanno delle domande si vede che hanno già letto qualcosa, non sono soltanto dei curiosi in viaggio, ma vengono proprio appositamente a verificare di persona se ciò che hanno letto è applicato e se possono portare con sé un'esperienza poi da raccontare. Questa è proprio la nostra forza, il fatto che appunto sono sempre di più i visitatori che vengono qui incuriositi, siamo sicuri che loro, ritornando nel loro, diciamo, nella loro vita quotidiana, trasmetteranno la passione che noi ci mettiamo, noi produttori del Cilento, della Campania, ci mettiamo nella realizzazione dei nostri prodotti. Ecco. È sicuramente una cosa che ci fa molto molto piacere. Torniamo alla signora Marmo che abbiamo ritrovato. Parlavamo, signora, del cacio ricotta, ci spiega il cacio ricotta? Sì, certo, ecco, mi sono di nuovo qui. Sì. Allora, allora è un formaggio di origine caprina e ha una lavorazione particolare, un po' lunga, diciamo, di riscaldamento e raffreddamento. Appunto, il nome stesso diciamo indica già la tipologia di formaggio, che è un mix tra l'essere formaggio e quello che è la ricotta, data la sua lavorazione, ecco. Ottimo per noi cilentani, insomma, da grattugiare sulla nostra buona pasta fatta in casa, e invece anche ottimo da mangiare fresco nelle insalate. Bene, grazie. Io torno a Antonio Longo perché voglio chiedere, appunto, fichi imbottiti, ma di cosa? Allora, la Santo Mille come azienda del territorio ovviamente non poteva non portare avanti la tradizione e quindi lavorare i fichi con le spezie più tipiche del Cilento, quali ad esempio il finocchio selvatico, le mandorle, le noci del nostro territorio. Però, dato che è un'azienda che guarda anche al di là dei propri confini nazionali, quindi non solo la tradizione, ma porta avanti anche l'innovazione, abbiamo iniziato ad utilizzare anche aromi provenienti da altri paesi, come ad esempio la cannella di Siron, l'anice stellato, perché i mercati internazionali amano anche queste spezie abbinate ai fichi. Quindi è una ricerca continua nella tradizione e nell'innovazione. Quindi lei ha parlato che il territorio è anche ricco di finocchietto selvatico, ha detto di mandorle e di un'altra cosa, se non erro, quindi vuol dire che è ancora più ricco. Abbiamo detto formaggi, abbiamo detto vino, abbiamo detto tante cose, ma mi sembra di capire, appunto, che si trova tutto Longo. Beh, qui abbiamo il Cilento, è la patria del clima mediterraneo, della dieta mediterranea, quindi se la dieta mediterranea nasce nel Cilento è perché Ansel Kay, questo studioso, capì che questa terra poteva dare tutti quegli alimenti nel campo dell'alimentazione che potevano allungare la vita, e quindi c'erano grandi risorse da poter sfruttare. Senta, ovviamente col fico, oltre a questa produzione, sicuramente nel Cilento ci saranno anche dei dolci particolari a base di fichi. Sì, certo, secondo me uno dei prodotti più particolari, più originali che fa il Cilento, a differenza degli altri paesi, è ad esempio il capicollo di fichi pelati. Oh, che bello, ci racconti, il capicollo, quindi torniamo ai salumi, insomma. È anche perché è la forma. Lei sa benissimo, e anche i nostri radioascoltatori, che a livello mondiale i fichi vengono essiccati con la buccia in un distretto molto limitato del Cilento, quale nei comuni di Brignano, Torchiaro e Liasso Cilento, c'è una tradizione unica, secolare, ossia quando i fichi sono verdi vengono sbucciati a mano ed essiccati senza la buccia, sia un fico bianco, morbido, con meno grassi e meno calorie. Con questi fichi se ne fa una sfoglia, si farcisce questa sfoglia con gli aromi che le ho detto, si arrotola, si lega, si fa stagionare minimo 3 mesi e poi si taglia a fette. Questo è il capicollo di fichi munnati nella lingua cilentana. Devo dire veramente che questo era un prodotto che non conoscevo e mi ha dato una chicca in più. Devo dire comunque che sentire i vostri racconti si sente veramente la passione, l'entusiasmo per il proprio lavoro, ma anche, diciamo, questa, come posso dire, appartenenza a un territorio, e questo è molto bello perché sempre di meno si sente in giro per l'Italia. Ma oggi ho sentito appunto questa voce importante che viene dal territorio. Ma noi continueremo il nostro viaggio fra poco, ora linea alla regia, grazie a Antonio Longo, grazie a Raffaele Barlotti e a Raffaella Marmo. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in marcia, andremo nei prossimi due luoghi bandiera blu, ma andiamoci con la musica. Andiamo a Sapri. Per chi conosce la storia, è un posto molto conosciuto, molto famoso, ma noi ci andremo semplicemente per mangiarsi un buonissimo gelato col caldo, sicuramente, anche se in questo periodo tempo variabile, ma il gelato è sempre il gelato. Buongiorno a Enzo Crivella. Buongiorno Davide, come sta? Gelatiere, famoso gelatiere di Sapri, famoso perché l'anno scorso ha battuto tutti nel sondaggio per la miglior gelateria italiana sul sito del Gastronauta, quindi sicuramente ormai passato alla gloria. Caro Enzo, ma in questo periodo, allora, visto che la terra del Cilento è così ricca di profumi, di sapori, di prodotti, mi dici quali sono i gelati, diciamo, più tipici fatti coi prodotti locali, coi profumi locali? Bisogna fare una distinzione, perché spesso faccio dei gelati quando vado in giro che sono delle provocazioni, perché faccio in modo che si parli del gelato, ma soprattutto dei prodotti e del territorio. L'ultima è stata qui a Napoli, è stata interessante perché ho fatto un gelato di fragola e pomodori del Piennolo. Quindi con una ricotta di bufala con sale Maldon, quindi era un modo per parlare di territorio. Soprattutto quando parlo del Cilento uso tutte le erbe della zona, proprio per dare visibilità ai piccoli produttori, di trovare anche per loro uno spazio per creare economia. Ecco, sì, abbiamo parlato sempre di territorio. Io voglio ricordare che domenica 29 giugno a Bosia, in Alta Langa, ci saranno appunto i prodotti, le eccellenze gastronomiche del territorio in mostra, e poi ci sarà anche un premio particolare, una manifestazione particolare che si chiama Ancalau. Ancalau vuol dire osare, quindi un premio a chi osa, quindi tutti a Bosia domenica 29 giugno. Ma torniamo al Cilento, rimani con noi, caro Crivella, perché io ora vado in un altro posto che è Bandiera Blu, a Marina di Pisciotta, e vado da Donatella Marino. Perché da Donatella Marino? Perché è un'azienda che si chiama Alici di Menaica. Allora, tutti pensano, quando si parla delle Alici di Menaica, che Menaica sia un luogo. In realtà Menaica è tutt'altra cosa, vero Donatella Marino? Vero, vero. La Menaica, buongiorno prima di tutto. Buongiorno. La Menaica non è un luogo, ma è una tecnica di pesca ed è un nome ereditato dagli antichi greci sia per la rete che per la barca. Quindi Menaica è una tecnica di pesca a tutti gli effetti. Quindi con la rete, una pesca con la rete per le alici. Sì, è una tecnica, appunto dicevo, che abbiamo ereditato, una volta pescata in tutto il Mediterraneo. Adesso è ridotta a pochissime barche, perché è una rete selettiva, è una rete di sbarramento, non è la classica rete che si vede tutti i giorni, che quando pescano i branchi di alici, che è una rete a circuizione, cioè raccolgono tutto il branco e lo tirano su tutti i pesci. Questa rete antichissima veniva messa dritta davanti al branco di pesci che corre. Solo le più grandi si incastravano, le piccole riescono a passare attraverso le maglie e quindi continuano la loro corsa, quindi anche una compatibile. Le più grandi si incastrano e si incastrano per le branchie, che dimenandosi cominciano a perdere sangue. Poi giustamente, tirando la rete a bordo, il pescatore le trova incastrate nella rete, quindi deve togliere la testa per prendere il pesce. In questo modo perdono tutto il sangue, abbiamo una carne più pulita, assolutamente priva di sangue, sotto sale abbiamo un prodotto totalmente diverso ed eccezionale. Senta, negli ultimi anni, nei posti così caratterizzati appunto dalla pesca delle alici, c'è Tara, Monterosso, c'è stata una grande diminuzione di passaggio. Questo è successo anche da voi nel vostro mare? Una leggera diminuzione, sì, anche qui c'è stata di passaggio del pesce, ma questa è proprio una zona pescosa proprio per le alici, il golfo fra Agropoli e Palinuro, e c'è proprio di pesce. E con la Menaica si riesce sempre a pescare, quello sì, non quantità eccessive, proprio perché pescando selettivamente il pesce le quantità sono abbastanza basse, però comunque si pesca ancora, certo. Senta, c'è in Francia per esempio sono molto abili commercialmente, addirittura nelle sardine mettono l'annata, sostengono che ci sono annate migliori di altre. Succede anche con le alici che ci siano annate, diciamo, in cui la lice è molto più gustosa, molto più carnosa rispetto ad altri, oppure è un luogo comune questo? No, a noi dipende più che altro dalla temperatura del mare, diciamo, perché quando fa caldo in primavera le alici sono nel momento giusto per la pesca e quindi hanno un gusto davvero ottimo. Se fa troppo freddo non riescono proprio a pescarle con la menaica, quindi non abbiamo questa differenza assolutamente. Quindi la selezione è proprio nella pesca, quindi diciamo che sì, è una selezione sulla pesca. E rimango con noi perché io torno a Sapri, torno da Enzo Crivella, perché abbiamo parlato di alici, ma Enzo, ma non hai mai fatto un gelato alle alici, scommetto, anche se tu fai gelati abbastanza strani e particolari. No, stavo pensando, però questa è una cosa difficile, però negli abbinamenti, visto che il gelato è diventato anche un elemento gourmet, l'ultima che ho fatto per esempio è quello con le olive caramellate pisciottane, che è una cultivar tipica del nostro Cilento, e l'ho variegata con del sale Maldon, quindi buona per un entrée in un ristorante, quindi da aperitivo, ma questo è uno spunto per dare la possibilità alle gelaterie anche d'inverno di trovare un sistema per fare cassa, perché come sa noi facciamo solo 2 o 3 mesi di lavoro e poi il resto hai parlato di oliva, di una cultivar particolare del Cilento, è così, ho capito bene? La pisciottana, sì, la pisciottana. Quindi della zona appunto di Marina di Pisciotta, insomma della zona di Pisciotta, quella lì. Zona è una zona fantastica perché ha degli oliveti centenari, quindi si produce dell'ottimo olio e quindi io ho pensato di dare sfogo anche a quest'altro elemento, anche se poi il piatto forte è il fico bianco d'ottato, sì, che io uso spesso nei miei gelati, perché si può abbinare benissimo sia al cioccolato oppure a una ricotta di capre, per esempio. Ecco, è verissimo che ultimamente il gelato viene combinato soprattutto da molti cuochi a dei piatti. Io, a proposito di alici, ne ho mangiato uno che mi ha quando il cuoco mi ha detto cosa mi portava, ho detto bah, speriamo, mi sono fatto il segno della croce, nel senso di io lo devo assaggiare per forza. In realtà poi è stata una sorpresa straordinaria, erano alici con gelato di una cosa particolare fatta col peperoncino e il grasso di maiale. E devo dire che sono rimasto abbastanza colpito, perché alla fine era veramente un'ottima cosa, non me la sarei mai pensata. C'è chi abbina le alici con il gelato di peperone, ecco, magari qualcuno ora sobbalza nella sedia e dice cosa ci racconta. Dicevo che il precedente che io stavo svicolando è l'anduia, quindi anduia con alici oppure peperone con alici. Quindi Donatella Marino, lei rimanerà un po' così sorpresa da questo abbinamento? Ma diciamo che tanto sorpresa no, perché le alici vengono abbinate davvero a tutte, è un pesce molto versatile, solitamente si cucina anche con la ricotta, semplicemente anche solo con acqua e farina, facendo le classiche frittelle che si fanno qui. Però gli abbinamenti sono i più svariati, soprattutto col peperone e il peperoncino è l'ideale, direi. Quindi sicuramente appunto allora il gelato era indicato. Bene, io ringrazio e saluto Donatella Marino e a Enzo Crivella. Enzo, ma parteciperà anche quest'anno al sondaggio mobilitando tutta la forza di Sapri? No, assolutamente, devo solo scegliere chi sostenere. Bene, naturalmente mi io piace faccio così. Gli auguri a tutte le altre giornate, perché è stata un'esperienza indimenticabile ed è un'esperienza che mi ha dato molto, devo dire la verità. Bene, il sondaggio è partito ieri e devo dire che lei è molto sportivo, mi piace proprio questo di dire beh, io non partecipo in prima persona perché ho già vinto, ma sostengo qualche d'un altro magari del territorio. Bene, grazie anche a lei Enzo Crivella, linea alla regia per dire che abbiamo concluso la trasmissione, in redazione Anita Panizza e Filippo Aureggi. Non so se gli piacciono le acciughe, perché non ho visto, e le alici, mi dice di sì, quindi anche oggi gli è piaciuta la trasmissione. Buon weekend a tutti.